Ciccio Bagaglio. Chi è? Chi è? Avanti, chi è? Chi è? Avanti, chi è? Avanti, chi è? Su Boboi. Ciao Gianmarì. Ciao, e beh, ma c'è altro nessuno? No, ho acceso adesso io. Ah, e neanche io ho acceso adesso. Vediamo un po' se c'è Grazia. Grazia, chi ci va a stare ancora mai niente? E beh, oppure vendersi la pinocchella. Ah, si va a fare di pinocchella, chi si sa di tutta la licenza, da ricerca mangiata per la metà notte, se rotti, sempre camminendi. Ah, non ho capito. Vabbè. Oppure, quello che ha detto tu starà imbottendo. Lui è casalingo. Lui c'ha lavoro per fare tutto il giorno per lavorare in casa sua. È pagato per lavorare, fa tutto lui. Beh, mancanza di altro. A meno quello ce lo sa fare. Lo sorprende la moglie, non credi? Da 1200 euro al mese. Però deve fare tutto, Deve farpare a mangiare, deve lavare in terra, deve fare il bucato, deve fare tutto qua, tirare e cosa vuoi di più? Deve fare la doccia a tutti, pure allungare, asciugare bene, lavarle bene a tutti, Lui fa tutto in quella casa. Ho capito, io per carità. Ma in campagna Sergio ci sei? Sono salito adesso. Aereo in campagna, un bel tempo che scendi. Ma non è una cosa, non hai di coso di bietole? Non te ne sono cresciute? Ho capito. Ho detto, se ti sono cresciute bietole. Ma ancora bietole no. Tra poco cominciano a uscire. Erba sta crescendo, ma bietole niente. Ho capito. E perché c'era stato un po' di bietole e... Sarei sceso, se me l'avrei fatta, me l'avrei venduta. Ah. Almeno quello, che cazzo, in mancanza di altro, cosa devi fare, Germani? Lo credo. Ti pigliare tutto quello che c'è. In mancanza di altro, bisogna arrappare su quello. Mi sento che mi stanno chiamando, Giuseppe. Già sono qua. Dottore, a te, dottore. Dottore. Uffo, dormi così. Ho svegliato il sogno. Come sei dormito? Ti vado a fare, sei dormito. Guarda, se mi regali una bombola gonfia, me l'accetto. Ehi, Camarina! Scaricato sei! Ho dormito, sono. Bene, attigattati! Tu dormito sei, Giomari. Eia! Quando? Giocando nella torre! E non mi tocchi! È meglio solo! Te le tue! Che difesa c'è! E me! Te lo puoi immaginare da 5 a 8 per la differenza, no? ma è che c'è? Se mi sei in Sì, come se tu mi dici, una moto 50, cioè una moto 500, una moto 200, mi cambia di più. Io guardi, non si può fare le case della di Graziano. Lo sappiamo. Grazie. Catta lo giochi, che differenza c'è, ma puoi immaginare io poi. Mandatatela la foto. Quanto è questo? Mandatatela la foto. E chi? Luca Gufo? Sì, quello con il display grande. Mandala a me adesso. Aspetta che ce la mando. Aspetta che... Mandala. No, non se ne può fare più a Nannano, visto Graziano. Pare il torrente ai giovani. Per farsi. Va bene, mandamelo, vai, mandamelo, su. Arrivato chi è, bello me? Ciao. Guarda, l'ho mandato su WhatsApp. Non mi è arrivato. Te lo sto rimandando. Vai. Guarda, c'hai due linee mie, è segnato qui, chi è arrivato, su WhatsApp. Sono arrivato. Guarda che non c'hai internet, c'è scritto nel mio telefono, non sei collegato a internet. Guarda, collegalo a internet. Su WhatsApp mi devi guardare. Ehi, sto guardando, non c'è. Ma sei qua, c'è scritto ultimo sempre, non puoi. E beh, arrivato. E cosa dici? E dove è brutto, no? E bello, è preciso quello che c'hai. Oh! Come on! Oh! Ah, secondo te che l'hai fatto con il tiro di un telefono? Perché da lì non si è collegato. Dalle 15.30. Cosa è fatto? E qua il telefono è mio. E il tuo non è collegato, mica me lo dici a me il telefono. E già me te l'ho mandato due volte e mi risponde così, non sei collegato alla rete di internet. Ma aspetta, quando se ti è arrivata adesso deve essere collegato? Boh, l'ho capito io, boh, bello bene. Che vai? Te l'ho mandato io, cosa non sono collegato? Te l'ho mandato io, vedo un po' la foto. Che vai? Dormitosi! Dove te io sono? Che vai? E chi? Tu! Che vai? Il tenere! È vero sì! No, sono vero, non sono buffonando! Ma sveglio sì! Dormito sono! Ma che da gufo! Aspetta che c'è il telefonino imballato! Si è imballato il telefonino! Da poi dice che il plumino funziona! Sono tutte le amate che mi mandano i messaggi e me l'hanno imballato! Aspetta che lo sballo! Ehi! Il telefono mezzo al latte, dolce, la giubisata, la vice mia, la mia, tu sento. Ma è arrivato chi è? Oh, yeah. Aspetta, grazie, è arrivato chi è? Aspetta che lo spento e lo sto riaccendendo, è impallato, è troppo carico, le donne lo sai come sono. Ehi, a me pare che sei tu, non le donne. Allora, diglielo lui. Alla fisica. E allora, padrino è detto, ma tu sei madre. Dì la verità, confessa, ti associamo noi. Ricordati, grazie anche a tutte le immagini che ti mandano, foto di WhatsApp, devi cancellare dopo. Solo lo riempi di mondezza e a voi ci supplica a farlo un passino. Ah, lo so, me le cancello. Non so cosa ti lei. Dove ti mi mandano su WhatsApp e me ne mandano dopo di creare. Cosa puoi farci lei? Non lo fate, non rispondi, ma andare in questo. Oh, ieri sanca! Attento, Luca Gufo! Attento, cala la pesca! Giovanni, dormitosi! Dormito ti sei, Giovanni, non ti sento se dormitomi! Ma cos'è che stai combinando? Un po' entri, un po' di... Ti chiamano, rispondi, cosa che stai combinando? Giovanni, dormito sono un po'. Ma non è che fai romare il durrono? No, Giovanni, è dormito, Ah, dormito, meglio così, dai, va bene. No, mi sto preparando che tra un po' devo andare a fare la spesa. Ah, va bene, preparatelo. Parti bello, mi raccomando, Manco si andare all'urto di metto io. Ehi. e Graziano. Ma c'è Rubetto che è, no, che è Latidozzi, no? Eh? Che lo sai che è Rubetto a Latidozzi? Oh! Che lo sai che è, no? Bello bello, vai a tutti sì. Oh, Graziano! E Don Vito, nove... Graziano! Graziano! Graziano! Non rispondi, che sta cosa qui mi hai detto? Cosa c'è? Dimmi ti vottore! Cosa c'è di mito? Aspetta, Giomari! Nella 27 c'è doppio ru! Cos'è? E nella 27 c'è doppio ru! Sì, aspetta che qua c'è Graziano adesso, dopo entro! Ok, grazie! A te funziona un telefono, va? Sì, già si è sballato, lo sto scaricando. Resettalo, lo spegni e poi lo riaccendi. Già l'ho fatto, ma ero troppo sopraccarico, ne sto levando un po' di musica e anche. Sì, tutto bene, ovvirai. Sì, c'è un sacco di roba, adesso me lo sto cancellando un po' di roba. Ok. Ogni tanto ci pari tu, cazzo, come mai? Arrivata te con la foto. Adesso guardo. Però vengo, fatto ti sia. Oh, sto facendo il foto, tutto sto guardando. Ma ti ho detto, no? Arrivata con la fotografia e non mi rispondi, boh. Arrivata, Allora, quello che ti ha mandato Luca. Quello nero. Ok. Però ti piace quello? Può darsi che non ce l'abbia. La batteria più grande, quello lì. C'è la sola in dotazione, quella lì è bassa. Non lo so. Guarda, Luca già le trova, via di là Luca queste cose, lui è più esperto in queste cose, grazie a... lui è più esperto. Lo so che lui è più esperto, ma... mi è andato imparato, furugeggia. Ci sentiamo dopo, dai. Aspetta un attimo. Gio Maria! Belope! Che bala! Oh! Belope, aspetta, me ne entro la roba da fuori! Belope, cerca di rimanere in frequenza, però, no, fa lupi che pongo, Guarda che sto guardando! E avanti il gioco tu mi stufate e non mi stufate! Avanti la pizza! Cosa ti rapi? Dove era Kino? Sì, dove è? E non mi batto via, non viene nessuno! Capito, da 2000 ampere c'è la batteria, ma la faccia te gli orecchi stamattina. Ho detto, e ci sono le batterie. Da 2000 ampere. Oppure per il Parigi T3 c'è la batteria. Oh sì, stavo guardando quella, per quell'altro che mi ha no. Non l'ho visto, non ce n'è mi sembra, però te lo dà, evidentemente danno solo quella in dotazione e basta, capito? Aspetta! Graziano! Ehi, ciao! E bene! Ehi, ti ho chiamato per salutarti, caspita, sei bandito! Che ho preso hai? C'ho il computer acceso, sto cercando una batteria se riesco a trovarla, tu? Lampa di tutto, Graziano, lampa di tutto. Avanti lampo di tutto. Mi sono già mezzo stufato. Sì, piano piano pone in funzione, non ti li appressa. Ehi, ah, ma vai di ragazza, se no se la abbia anche ci vai, se non piglio più assai più. Ehi, ehi, dai. Sai che mi sto andando giù, e sei tu su, hai già speso 23 vittorie, mi ha detto, mi Graziano non lo sai in PMR, hai già vai a salutarlo. Bene, grazie, stammi bene, saluta la signora, ci sentiamo magari più tardi oppure domani se coincide. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Lillu. Che è che ti posso dirci, bello bene, io. Ebbè, bello bene, finito hai. Bello bene, ma mi rispondi. Non ho finito che sto cercando, sì. Accorgici, non acciappi, no, tu non acciappi, ma con di veleva. Dila a Luca Gufo, vedrai che te la trova subito lui. Sì, glielo detto anche a lui, e la stava cercando lui anche. Così non l'ha usato, non mi aveva dato la risposta. Ah, così. Ma per quale apparecchio che devi prendere? Quello della foto, sto guardando se ce n'è, siccome quello lì non è come quegli altri sono più circolazione, più venuta, dunque gli accessori di essere qui. Quello là, e meno venuta come accessori, quello là non è ha. Sto guardando a vedere se riesco a trovarlo in un altro posto che abbia anche gli accessori per dire che ricambio a parte la mia di e tu quello lì non prenderlo e prendi un altro tipo che ci sia la batteria. Va bene, non ne ho trovato, non mi inibisco di chi ci vuol dire. Aspetta, no, di fretta. Già so che bene Dio, burro. Già tu di chi quando... Cado la ciappa e ti posso vedere. Vabbè, ma giuginato, la macchinetta direbbe di lui. E non me ne ha... Hai fatto bene. Ok. D'accordo. Io... Allora è stato bacchito, si è parato da giusto. Se c'è freddo, chiaro. E poi si è più impegnato, lui sa facendo dei lavori, che... E così via. Si è parato da giusto, infatti mi ha detto, è fatto da salutarmi. Che gliel'ha detto Tore, che erano il PMR. Ma le ha detto che era confuso. Ma ha detto la fase giusta. Così ha detto. Vabbè, ma ha giuginato la macchinetta di bene, l'uva. Chissà che funzioni aveva, è di marca. Filippi. Quant'è? Illumina. 50 euro però scontata. Scontata, 50 euro. E vabbè, se piace a te, va bene, anche per me. No, quell'altra che c'ho, la robenta, cioè il riduttore, è fuori produzione quella, e gli accessori non si trovano. Però me la tengo, ma stessi. Al limite l'accessore più alto che c'ho, lo piallo. Lo consumo è un posto di l'altezza di quello che si è rotto e la busto trattare a te. Ah, ti ne posso bene, e non ti cresce di più, non spendi più di là. E ti posso risparmiare la macchinetta di 50 euro. C'ho il bruciatore corto. Così che l'uovo comprato da poco a Bricomen. Fai i capelli proprio a rasero, ti crescono più i capelli E ti faccio gratis, contento sì. Ce l'ho anche io con la bomboletta portatile. State trattando una buccia. Avevano ma a sciogliere un pezzo di catrame sul tetto dove esce il tubo dello spiato del riscaldamento. A mettergli un pezzo intorno al tubo di catrame, poi ce l'abbiamo trattato. 10 minuti, se no burù, ce l'ho dentro la scatola. E vai pure 4-5 bombolette, saranno esauriti di gas. Ma come fai, cazzo, si esaurisce, cazzo, quando la bomboletta è chiusa ermeticamente, quella è chiusa, non si guasterà mai, mai e mai. Ma anche quelle che non sono attaccate, che non avevo messo, sono nuove nuove quelle, non si consumano. Io ce l'ho quando facevo capigio a quelle bombolette, anche quella della luce, cioè il bruciatore, quello, anche il fornello ciò. E funzionano ancora. Ah, non si esaurisce il gas. Oh, che c'è? Che c'è, conta, hai capito, 30 anni, 7 anni. Si può immaginare, è pure una bruciatore, una nuova che avevo preso dalla Bricco vicino al mercato, c'erano due bombole di ricambio, quelle moderne, questa è la moderna, quella che ho preso dalla Bricco, quella è bella, è moderna, va, è facilissimo, c'è anche l'accendisigari per accenderlo, capito? Mentre invece quell'altra che avevo, che c'è in campagna, bisogna avere l'accendino e fiammifera, eccetera. Invece questa qua accende con l'accendino di sigari, con quello della bomba stessa, no? Abbassi il pomello e si accende. Apri i casi, no? Accende automaticamente. Adesso a minuto devo farti l'endichino. Vabbè, però vai. Tutto hai cancellato. Dormito sì. No, coricato solo dalla sedia. Mi ha gestudato che vado un culo quadrato. Tutta la sera abusato. Tutta la sera. Ti sei bisogno di entrare a roba, a pigiarla. Hai fatto il piatto, hai lavato in terra. Cazzo, sei sempre bene, sei sempre bussato, dai giù. Vabbè, ma due orette seduto, già ero seduto. Ah, vabbè, di non creda, bene di piccio. Ma non andrà però, Cazzo, si sta occupata, vabbè. Non puoi rispondere, non rispondi. Non rispondi, dopo di giambe non rispondere manco. Sei stato un po'... Mi pare un coso, mi pare, dai, ti attacchi a una cosa e non la vedi più. Io che devi stare sempre bene, io che ho un cantiere. Ah, ma quando sei in movimento, cosa vuoi? Ah, ma quando sei in movimento. Sì, ti dice, batteria non ce n'è. Quello lì dipende così e buh. Pezzi di ricambio non ce n'è. E non ha già avuto. Luca di Trusicavaetto, evidentemente non ha avuto. Ehi, non ti preoccupare, non l'abbiamo presa. Che la prendiamo, lo controlliamo bene con Luca. E dopo vediamo un po'. Faccio se fanno pure a me. Così cagando la ciappa come ci volevo, allora vediamo un po'. Ah, già non ha più presa, stavo guardando solo che mi ha mandato quella foto Luca, che quello c'ha il display più grande, però se non vi soffetti, no, lo metta risa, invece quello là è di marca, no, di marca più conosciuta, i pezzi di ricambio ci sono, i pezzi che ti servono, antenne, carica batterie, già guardo anch'io e Luca là, non bisogna avere fretta, per cui tranquillo. Ok, va bene, Luca Malinconio, andrà a fare presa e per il viaggio a casa sua a presa chi dovrà andare a regalare tutta la roba tutto il viaggio. Ehi, la carriola si piglia e poi su a mazzo ha regalato gusta un paio di nazzi, 4-5 euro, ma buffonendo invece quell'altro che ho trovato era 30 euro, 31 euro. E cosa? Quello col display, più grande. Ah, vieni so, vieni veramente, perché te la scegliere, però, piano piano, senza pressa, capito bene, bene. Ehi, già ne ho viste, già ce ne sono mille, però se non sono conosciuti, ho visto pezzi di ricambio. Che quello è? Bisogna trovare un aggeggio che ha bei pezzi di ricambio. È giusto che sia così, mentre quello che c'hai, i pezzi ci sono. Capito? Infatti, di chi sa macca, beh, perché sono più venduti, sono i più in circolazione, più richiesti. Quello là è meno richiesto. Pure si è fatto di streggimato. Chi è pagice, non ha gatto bene, non me ne ha tutti nulla. Andava più lì, chi è pagice. Eia. Dunque, ma... Vediamo. Cagliolo, se l'ho preso buono. Fa pigliare, se è molto agile, non li piglio niente. Magari davvero una gattina, non so, voi già abbatte l'antennino, voi pigliate una batteria. No, la gattina è bella. Appunto, malissimo. Se la gattina si risolve il ricambio, se no niente da fare. Siamo bene come siamo. Aspetta un attimo, senza paura. Gian Maria, aspetta mica da buia entra. Cazzo, ma è tutta la sera oggi, La piglio dai don, ma tutto. Per carità, cazzo, iaia. Lo si ne può fare là nel piro. Chiccio Graziano. Per carità. Non ho finito così, hai detto che la cosa di 104 mi lo fa perché la macca si vede di 12 bucci. andiamo catta. Ah, se il muovo ce lo fa di peggio. Mino grazia il teso al masciottone. Oh Giulia. Ma cosa è andato a fare? Questi soldi che la facci a buttarsi la mondezza alla partita. E te, soletto? Ehi, alla gente già graziano, sì. Catta, bebè. Tutta la gente a buttarsi, no, che faccio un quadrato, va. Si scende di quella batteria. Oh! Ehi, catta, tu non ne dormi con chi la batteria. Ehi, va, poi mi sono rotto le scatole e mi ho ordinato il tagliacapelli nuovo. Ma la gente mi fa già grazie, se vai speso 50 euro, to. E mi voglio fare gratis, con un brucatore, cazzo, che non riuscivo più bene. E aveva fatto risparmiare, e invece sta usando la macchietta a farsi di bere. Un cagnolino portato là, Tore. Tore, se pensi in mezzo alla bufera. Ehi, catta, bubu. Ma cosa stai facendo? Oh, stirando. Era ora. Ora, lui che ci si sta pranciai. Ma che ti credi, siamo a cui io. Ammettilo, dimmi tu Giammari, non lo vuole ammettere. Ma la macchina sono l'unisi, tu. Tu sai cosa sono convenni, non ti meravigli nemmeno cosa sono convenni. Un filmino porno. Ma finirà, gatta di pura. Da cosa, filmino porno sono qui io. Bubu. Aspetta. Ma di vino tu, io sono graziano io, di vino. Non mi sa che abbia tenuto a smettere i nocchi, dove vedi un filmino porno. Perfettamente, è abbonato graziano a questi quei film, Confessa di graziano. Ah, senta che mi arrivi da giappa, allora, che devi pulirci cosa tu. Oh, io graziano. Tutto lo voglio, tutto lo cerco, non se lo vuole. Chi sei polizia, poliziana, Indiana, mi. Indiana, te ne racconto. Indiana Jonesa. La gente tutto, è tutta la sera benedici così, Noi la benedici la batteria, no. La batteria della femmina, la benedici. Sto. Ci ho compreso, sì. Certo che andiamo via, andiamo. Caspita, ore, una goccia di chi c'ha in base, tre di meno in base. Aspetta tu, sai. Così è, grazia. Uiuia. E se no a centralina di dati, chi c'ha una buccarella? Sì, andiamo via, andiamo. A te la mangi, mio marito. Oh, te ne si racconto, grazia, mi raccomando. Dire sogni di saluti. A chi non ti piace a chi sta bionda e ti abbiamo mandato? La siciliana, di la verità e farò. Oh, te la dico da subito, gatta. Te la mando da subito, no. Oh, perché? Push. A Gisella, te la ricordi, la biondina siciliana? Sì, ma a me sì. La spiccia non me lo manda a me, i cosi lo mandano a me, capito? Io sono pulito, l'ha fatto con Perlana, diglielo a tu. Cata, bubu, grazie, ma noi tipo dei siciliani siamo. Ci mettiamo da irlandese, ci vuoi di malaghista che c'è niente a parò, Tore. Ma non me ne fotti più nuda a me, ormai non mi va se ne più un baffo a me. Aspetta per il Cristo, stava, a chi mi scrivi? Otto. Sì, a Giomari. Per forza Rossi, evidentemente, le feri soffrì. Sì, catta, non risolvo, no. Catta, io dico che... Dile fasi, che dire fasi la vaffonatura, le fasi. Ti sa contenta così a parlare in fotografie. Otto, cosa? Mi la voce così, Edo. Sì, che andava e anda. A te. A parte che ti sa via fino in Bellope e la divisa che ero fuiubato. Allora sei incazzata. Come si poteva fare? Sta bene lo stesso. Così tua moglie ti dronca Rossi, ti dronca. Ma sì. Aspetta, cuffa. Se sei giusto. Non mi tacci. Cuffo, ne vuoi aspirina? Sì, ho trovato il video. Quello che non c'è al treno. Si dice qua che l'hai visualizzato. Ah, te lo sto rimandando. E per morti siete. Ore. Peggio. Mano io per quello. Luca mi ha mandato un video, c'è uno scemo vicino a Binari. Ed è arrivato in un treno, ha allungato la mano e il treno gli l'ha franciato. Oh, occhio occhio al treno, grazie. Capita la pigliata in piedi, che succede a vedere della telecamera a ridere, chi l'ha franciato, pugna va. Ehi, non c'è baedo, basta passissini. Pugna scemo. Otto. E io Gio Mari. E io tanto là. Ci sentiamo domani là, se Dio vuole. Buon proseguimento e... A domani. passato ti abbacchi a Graziano, ti si abbacchi sul treno, ti abbacchi a te, chiudo, dai. Ciao anche a Luca. Ciao Gio Maria. Ciao Gio Maria, buonanotte. Oh Luca, malissimo, la faccia. Ah, non è vero. Avanti, ciao, riprendi tu. Sì, ok. Ciao Gio Maria. Comunque buonasera Luca. Ehi, adesso mettendo a posto la spesa qua. Sì, vabbè. Grazie, sono in stand-by. Aspetta, oh Luca, Luca! Guarda che la spesa! Per forza, per dei viaggi, io ero tu sì al Zula. Da Europa, fai dei viaggi a piedi e ancora non ha regalato tutti i canti. Facci due viaggi ancora, vero Luca? Non ho capito, Gio Mario, cosa hai detto? Grazie, l'ha detto, ma Luca l'ho fatto. No, dici che è andato a fare il peso a piedi. E adesso ti carrendi ogni viaggio e fai il racconto e la regalo a casa sua. Tu che stai caricando il racconto qua? Ma questa la posso far vedere a casa a Cuto, no? A farla salire lo spine, questa ne è a Cuto. Troppo bizantino, non ce la farei mai a farlo. Oh, Graziano l'ha detto oggi, l'ha detto Graziano io, Però beh, dillo, di la verità. La carriola ti pigliava, se no passavo io che ti prestavo lo carruzzo, Luca. Hai c'ho il tirato, Graziano. Sì, lo carruzzo già si può fare, capito? Già si può fare, ma a piedi così no, è simile. Troppo carico c'è l'acqua, non ce la farai mai, non ce la farà nessuno andare a piedi a portare questa spesa. Io con la carriola ho un carro che la tira ricchi, ma... Ehi, tu! Sono assentato, sì, stampando, sì. Per a me! Scusi, ce l'hai, ma a me mi stai dicendo. Ehi, e cosa vuole te comprare? Ma non mi dai sì. Ehi, la pizza te l'hai comprata? No. E perché? Perché sì. E va te. E che pizza, grazie, ma alle rospinne? Ehi, e la dici che erano in offerta, C'erano in offerta, i tranci malità. Ah. Però lo sai che è più buona quella dell'LB? Ma sai cosa è? Che a me non mi piace di più. Preferisco quella fatta subito in pizzeria. Non mi si farà più, chissà. A me poi se ne ho mangiato troppe. Noi prendevamo quelle condite, quelle tonno e cipolle, l'altra, come la Maria, la capricciosa, campagnola, boh. Infatti io più mi prendo la campagnola, la capricciosa, o la veneziana, quella chiusa. Quelle mi piacciono, ma io dico zucchine, melizzane, non mi piacciono queste. Quella... con i gamberetti, due gamberetti di cattura. No, a me piace un bel la capricciosa, e mi prendo quella, oppure il calzone mi sembra, il calzone, è quella che poi te la racchiude, quella è buona, che dovrebbe essere da condita. Ho capito, vabbè, a me non mi piace, quella è se surgelasse così, se la mangiavo prima, ma non mi si farà più, la preferisco fresca, fatta come te mangiata. Anche io, no, qualche volta già lo mangio un pezzettino, perché quelle surgelate, come ti si fredda, diventa una zaura, torcia che la palla. Mi male forse piace l'attore, boh. Qualche volta. Cosa, to? Qualche volta mi piace, però non sempre. Io la preferisco andare in pizzeria, cosa hai mangiata? Grazie, a me pure piace così. Ti metti su gelati, io no. Mi piace, quella. Io mangiavo spesso e volentieri quella sono le cipolle. No, a me ci sono piatti bru più. Ragazzi. Ma se no in pizzeria con la margherita, vabbè, con la messicana, così si chiama mai, con le patatine fritte, oppure margherita piccante. No, preferisco me funghi e coso e prosciutto preferisco. Sto graziano, di questi giorni mai vado a asparagi, se avessi una ciappa. Sotto Monteoro non dovresti trovare. Sotto Monteoro? Sì, sotto Monteoro. Perché c'è un tipo che va a zona tipo Muro, sulla zona lì, Codrongiano, e ne fa, praticamente questo qua ne vende 100 asparagi 5 euro, ma belli, Sì, è da fare gli faggi, con 5 euro. Chetta. Oh, vai sotto Monte Oro, vicino a dove c'è il coso della Mondetta. E lì ne trovi quanto ne vuoi quella montagnetta. Adesso ci organizziamo, ma stavolta c'è questo mio amico lì a Coso, dopo Cana, come si chiama? Molaffa. Anche di vicino ce n'è. Adesso ci faremo un altro, quella la prossima settimana, va, domani esco, non la giugana, poi mi stanco e c'è da camminare anche. Sennò poi domani mi ripasso la gambici. Adesso se mandiamo a Graziano, mi grazia. Ehi, è a cercare cosa? A Sparagi, da ci vieni? In campagna prima veniva non bene. Si sale buscando qui sale radici. Per la danca, la cantone vazia, a bustone. Ci andava di ragazzi uno e due, di ragazzi buono. Se no la gattia tagliata, per di me non ne trovo mica andai. E c'è questo tipo, come si chiama, che si porta la borsa grande, borsa di quelli che ho da calcio, sono riempie, pieno, ecco perché li vende così, vuol dire ne ha bisogno, li vende subito, si fa subito la giornata, non è che sta lì a aspettare, proprio sono prenotati. Già lo so, quelli lì, un po' di gente vale a raccogliersi e li vende subito. Già lo so, una Vespa 50, pick up, 500 euro, bianca. Ho capito, scusa grazie che stavo parlando con Marina, cosa hai detto? Qua dove compro, vendi, c'è un Vespino 50, pure i frecci, bianco, non so vedere se cos'è il tuo euro, ma se può pigliarmi. Oh, bello sarebbe uno special, quello del 1972, 74. Qua c'è questa, Vespa Picapa N, 500 euro, sembra comporta bene, è bianca. Mina diventa una più antica, aspetta. Chi sa tutta rugginosa, con un manubio esce a vedere. Con un manubio ci manca il faro. 400 euro, per carità, c'è un catarrucci. Ma io si incalo di capo. Un farrubiccio, mi manca un faro, mi pare un po' incendiato, è tutta rugginosa. Allora, ho fatto l'altro giorno un giro su eBay. Stavo controllando dei baracchini, ma un mondezzaio, non ti pare tu a vendere un baracchino, ma un po' pulito, no? Sono tutto quello di più, ma tutto graffiato. Mi sa che era un baracchino modificato, 150 euro, 170, per carità. Vai, io mi piace una radio, non mi piace più radio usate. Mi la puoi dare garantita, grazie di piatti, mi la puoi fare giù nuovo e poi armato gioco sicuro che ci funziona. Oi, che tutto il mondo è tra i suoi vedi. Luca, una per 50, gratis, c'è scritto. A te Teresa, color verde. Ho capito. A per 50, gratis, una volta carrozzella. Colore verde. E un biloncino, un gascione. C'è scritto gratis, contatta. Sì, l'avranno già presa quella, a te zitta. Dici, vabbè. Ah, boh, io... Faccio di venire di Gumparà, andare così. Vabbè, ragazzi, io mi sto Sto chiudendo perché sto mettendo a mangiare i cani. Ok, ci sentiamo magari domani. Ok. Ciao Grazia, ciao Luca e ciao a tutti gli altri in ascolto. Ok, ciao. Ciao Sto, ciao, buona. Ciao Store, buona cena, buona giunta, alla prossima, là, domani se coincide. Là, sono stato qua. Ciao Luca, buona cena, buon giunto. A domani se coincide, fai da bravo, bello bene. Ciao, grazie, buonanotte. Saluta la Paoletta, ciao. Ehi, ciao, ciao, ciao. Ciao.